Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. No, io sono tuo padre. Il sempre efficiente lanciafiamme. Il mio preferito. Benvenuto sulla Terra! Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà. E rieccoci qua su Radio Wombat 1359 Onde Medie, e queste sono le porte di Tannhäuser. Benvenute e benvenuti a tutti. Onde Mediocri, che tra l'altro ultimamente stavano un po' facendo le bizze, strano, perché lo fanno una volta su tipo due, ma adesso dovrebbero essere ritornate in forma, quindi accendete le vostre radioline e ascoltateci anche attraverso quel mezzo. E wiwa. Sempre il sito, vi ricordiamo, anche per l'ascolto più canonico ormai in streaming, radiowombat.net, lì potete trovare anche i podcast, le vecchie trasmissioni, anche quelle che non esistono più da anni ma che magari potete andare a ritrovare, sempre interessanti. E il palinsesto, dove potete guardare quando siamo in diretta e quando siamo in replica. Palinsesto aggiornatissimo, forse ero troppo lontano. Forse sì. Aggiornatissimo, quindi ciò che vedete è la realtà dei fatti. Per una volta, però a noi piace sognare in questa trasmissione, e quindi immaginiamoci un palinsesto così random, enorme. Sì. Sì, e oggi ve l'avevamo promesso due settimane fa, l'ultima puntata delle porte di Tannhäuser. Vi avevamo promesso una seconda parte della puntata dedicata alle fanzine di cyberpunk che parlavano di cyberpunk italiane, perché ci eravamo addentrate, se vi ricordate, un po' nelle prime aree geografiche. Ci eravamo addentrati nell'area più o meno di Roma e dintorni, e in quella di Milano e dintorni. Abbiamo esplorato le varie decoder, InfoXO, insomma varie cose, codici immaginari, un po' di tutto. E vi abbiamo anche un pochino fatto un'infarinata di che cosa significavano le fanzine, e in particolare da dove nascevano e come si sono un po' evolute, ma in particolare l'importanza che le fanzine hanno avuto nello sviluppo della cultura cyberpunk. E ci siamo soffermati per ora perlomeno sul territorio italiano. Sì. Perché sennò era un po' un mondo enorme. Però vedremo che questa seconda puntata. Ah, ma io perché c'ho il microfono che mi va giù da solo, cioè si allena. Devi annuire nel mentre. Sì, vabbè. E quindi niente, chiaramente se ci mettessimo a parlare anche per esempio del mondo statunitense, ovviamente adios. Ciao, ci avremmo da parlarne per ora. Oggi faremo una piccola infarinata, andremo anche, ci avventureremo, metteremo il naso un po' fuori d'Italia, però ritorniamo almeno in partenza nei nostri lidi geografici e ritorniamo in realtà a Milano per una dimenticanza. Giusto. Perché in effetti abbiamo citato decoder, abbiamo parlato di Fica Futura, di un sacco di robe belle che gravitavano nella scena milanese, chiamiamola così, del cyberpunk degli 80-90, sempre nell'ambito delle fanzine, ma ci siamo un po' dimenticati i grandi vecchi, chiamiamoli così, anche se forse loro non sarebbero così molto d'accordo o contenti, che sono quelli di un'ambigua utopia, sempre in realtà nata nel giro milanese, anche se con grandi radici che poi andavano altrove, ma è una rivista che è un po' più antica rispetto alle altre, perché inizia in realtà negli anni 70 e si occupa, per quello anche forse un po' l'abbiamo dimenticato, non ci siamo andati subito a tuffarci, sì, perché è un po' una rivista che più genericamente tratta di fantascienza, quindi non è specificamente dedicata al cyberpunk. Certo. È partita negli anni 70 e il sottotitolo è Rivista di critica marxiana. Bellissimo. Quindi sì, infatti veramente titolo mai fu così azzeccato. E vogliamo citarvela perché chiaramente è stato un pilastro, è stato molto importante, molto interessante. Ma ve lo citiamo anche soltanto perché uno degli animatori e dei pilastri di questa rivista era Antonio Caronia, che è stato di fatto un po' il traghettatore del cyberpunk in Italia. Cioè colui che almeno uno dei... ma forse una delle figure più importanti che hanno veramente fatto di tutto per introdurre e far capire che cosa era il cyberpunk, e non solo, perché è stato anche un grande cultore, curatore, traduttore di Philip K. Dick. Di lui abbiamo ricordato La macchina della paranoia, una monografia dedicata a Philip K. Dick, molto molto molto interessante, dove ci ha raccontato un bel po' del suo pensiero, da cui abbiamo attinto a piene mani quando si è trattato di fare anche la nostra puntata su Philip K. Dick. E insomma, ovviamente anche dentro un'ambigua utopia si parla di cyberpunk, non soltanto ovviamente, ma se ne parla e come. E quindi niente, dovevamo citarvela. Assolutamente, a differenza delle fanzine di cui abbiamo parlato, questa è ancora pubblica, è appena uscito quest'anno. Sì. Il 14° volume. Ovviamente si tratta di un progetto in qualche modo anche rinnovato, anche un po' diverso. Perché, sì, insomma, non è più fanzine, assolutamente. No, poi insomma si parlava del 77 quando sono usciti i numeri, e quindi si parla di un po' un altro mondo di fatto. Le persone non sono più le stesse, alcune come Caro purtroppo non ci sono più, quindi c'è insomma scritto, sì. Ovviamente si tratta di un altro progetto, ma lo spirito mi sembra abbastanza rimasto intatto. Molto bello, tra l'altro io vi consiglio di andare sul sito, perché come dicevi esiste ancora, il sito è unambiguautopia.it, preciso, dove potete anche leggere un po' i vecchi numeri nell'archivio, insomma andarvi a guardare. E mi piace molto il fatto che ci sono molte foto di loro, della redazione, insomma ci tengono anche a parlare di sé, delle persone che erano in qualche maniera e le persone che sono. Quindi un'ambigua utopia. E altra, ultimo gancio che vediamo è che l'archivio, il fondo Caronia, perché è stato istituito un fondo Caronia dopo la morte, Caronia ha lasciato un po' la sua enorme biblioteca, il suo enorme archivio preziosissimo al Torchiera, che è un posto occupato, gestito dal milanese, che ha dedicato un'intera ala del suo spazio a questo fondo. Quindi se andate, purtroppo vedevo che online non l'hanno ancora pubblicato, anche se dicono sì sì c'è, ma non è vero, è una pagina vuota. Ma se andate fisicamente a Milano e passate da quelle parti, potete andare al Torchiera e andare a attingere a quella che è stata veramente una vita meravigliosa come quella di Antonio Caronia. Bello, stavo andando sul sito Cascina Torchiera. Sì. Cascina Torchiera, Cascina sì. È un Cascina posto. Pisa. Esatto. Stavo guardando, va bene, molto interessante comunque, anche accidenti, però va là, il sito bello ci hanno. È vero, sì. E, sì, potete Eccola andare... Bibliotorch Interzona Caronia. Esatto. Anche da lì, interzona, si entra direttamente nel cyberpunk. Diciamo che i riferimenti precisi a Barrocks, al cyberpunk, a Gibson sono molteplici, e troverete tracce di cyberpunk un po' sì, in sì, tutto. Sì, sì. Qui trovate, potete consultare parte dell'archivio, quindi evidentemente parte dell'archivio è digitalizzata, e le fanzine e tutti i numeri di un'ambigua utopia. Esatto, nonché tantissimo altro materiale che Caronia nel tempo aveva collezionato, e non solo quello che ho fatto proprio da lui, che comunque era tanto, ma anche quello che leggeva. E... bellissimo, un po' troppo pulito, però bellissimo. Esatto. E, rimanendo sempre in Italia, ma questa volta staccandoci un po' da Milano, ci addentriamo invece nel giro bolognese. E lo facciamo partendo dalle edizioni Synergon, che nascono a Bologna tra il 92 e il 97. Diciamo che qui è un progetto che è abbastanza limitato nel tempo e non si tratta veramente di una fanzine vera e propria, ma di una sorta di casa editrice, cioè un progetto editoriale. Ma come vi dicevamo quando ne parlavamo con la Shake, ricordatevi sempre che si parla di progetti editoriali autogestiti, in qualche modo caserecci, anche se nella qualità erano splendidi sia da un punto di vista di quello che venivano, dei contenuti insomma, di quello che facevano, ma anche proprio del come venivano poi diffusi, presentati. Si trattava comunque di, mi viene da dire prodotti, anche se è un termine orrendo, comunque avete capito cosa intendo, cioè di lavori, ecco, che erano veramente molto molto molto belli anche da un punto di vista estetico. E qui si parla di appunto un progetto editoriale che cerca di mescolare il cyberpunk, il noir e il situazionismo. È questa volta un qualcosa di molto dedito alla narrativa, che in qualche maniera decide di approfondire il cyberpunk, non tanto come abbiamo visto in altri esempi attraverso la cosiddetta saggistica, cioè non troverete tanto appunto fanzine o riviste che raccontano che cos'è la cultura cyberpunk, come si relaziona al mondo, all'internet che nasceva, no? Abbiamo visto in altre occasioni, sì. E qui in realtà invece si va proprio a fare del cyberpunk puro, narrativo, e infatti ci sono molti molti libri, romanzi, racconti e che appunto che approfondiscono un po' il lato noir del cyberpunk. Questa forse è una cosa che non abbiamo detto nelle altre puntate. Giusto. Il sottofondo, oltre a tutto lo sfondo di tecnologia di cui abbiamo ampiamente parlato, ma un filo conduttore del cyberpunk, della letteratura cyberpunk, è il noir. Cioè queste ambientazioni amare, cupe, sia da un punto di vista meteorologico, piove sempre, comunque sempre più anche grande. Perché spesso catastrofico, per cui la terra o chi per lei di solito è super inquinata o comunque no, cioè sì, queste ambientazioni depressive dove di base ti muovi in questa, ti trascini. A differenza dello steampunk non è il controllo della natura, no, attraverso la tecnologia, ma è la tecnologia che ha preso il controllo dell'uomo poi alla fine, alla base del e quindi questo chiaramente si ripercuote, perché è in versione negativa rispetto a quell'altra più positivista, e anche gli c'è meno sole, molti assolutamente cunicoli sole quasi per niente. Ah, ma tra l'altro, come si diceva anche le altre volte, l'atmosfera è asfittica, è un qualcosa, una tecnologia che non ti lascia veramente spazio per respirare. E c'è di interessante che nel noir, cioè probabilmente, io ora dico un po' a caso, mi lancio, ma secondo me non è un caso che viene presa come ambientazione quella del noir, perché anche nel noir c'è un certo. Nel noir più classico c'è un certo mal di vivere, che non si sa bene da dove arriva, no? Cioè i personaggi sono sempre oppressi in qualche maniera da un, però non so cosa, non è uno Steinbeck che ti dice per filo e per segno il perché quelle persone stanno male, no, lì c'è un'impalpabilità. Si sa che c'è la malavita, magari si sa che c'è i politici corrotti, c'è un'amarezza. Sì, quindi non puoi fare niente in realtà, no? O sembra che tu non possa fare niente, perché poi quello. Sì, poi in realtà anche lì sì, i personaggi del noir spesso poi in fondo sono molto attivi, ci provano disperatamente, però sì, c'è una certa amarezza, e in questo il cyberpunk probabilmente ha trovato un buon alleato. Sono d'accordo. Tornando a Synergon, si chiamano proprio edizioni Synergon, e anche visivamente, se andate a vedere potete trovarlo per esempio su Archive. Sì, su Archive, sempre da tramite Graphtonline, che è il sito di cui parlavamo nell'altra puntata. Quello lì con tutti, no? Che ci sono, hanno archiviato e digitalizzato tutta una serie di fanzine. Io per esempio sto guardando ora Ritorno Alice, il ritorno di Alice Cibernetica. È un libro, sembra un libro. È un romanzo. Con, notavamo prima con le fanzine che ci hai portato, di cui magari parliamo un attimino. Non c'è niente, non c'è una data di pubblicazione, sì. Non c'è niente. È giustamente una fanzine autoprodotta, fatta uno scantinato giù di lì. Bellissima nella sua fattura, ma non ha niente, no, di classico, di professionale, come è il significato di fanzine. Qui invece siamo in qualcosa di un attimino più professionale, cioè, o comunque... Questo è un libro, sì, di fatto. Poi, fighissimo, cioè, per esempio, vi leggo l'inizio, la citazione, no? Che si trova sempre nella prima pagina, prima di iniziare a leggere il libro. Gli schermi del virtuale sono più labili di quelli tradizionali o degli specchi del passato. Offrono sempre di più alla vista. Ci fanno scoprire qualcosa del lato nascosto della scena. Ci fanno superare lo specchio di Alice. Ma il lato nascosto virtuale della scena non è che una scena a sua volta. È necessario cercare al di là, nei modelli, il senso degli spazi virtuali. Sono labirinti di labirinti. Questa è una citazione di Philip... come si pronuncia? Quo. Stranissimo. Quo. Quo. Mi viene da dire quo. Come uno specchio su Virtual numero 3, 1993. Insomma, comunque, no, cioè, è una roba... Sì, classica. E tra l'altro notavo, io ho iniziato un po' a leggerlo, questo romanzo che non conoscevo di, diciamolo comunque, Pino Blasone, ho scritto Piano, ma in realtà è Pino Blasone, e questo romanzo è uscito nel giugno del 96, e ho iniziato un po' a leggerlo, non lo conoscevo, ed è anche proprio bello, nel senso, ha una bella scrittura proprio, secondo me. Ora, non perché non me lo dovessi aspettare, però in qualche maniera questo tipo di edizioni è, secondo me, anche molto curata da un punto di vista proprio anche di produzione letteraria, di linguaggio, anche di storia avvincente. Sì, purtroppo, sì. Tanto cyberpunk, che si è visto un po' agli sgoccioli un po' dopo, tralasciando i problemi di traduzione di cui ci siamo sempre lamentati, che quindi rendevano la lettura spesso anche dei classici molto faraginosa, ma il cyberpunk un po' più nuovo, quello che poi a un certo punto ha iniziato a derivare, che era un po' la fine della scena, era, secondo me, noiosissimo, scritto male, con queste trame buttate lì abbastanza cliché. Certo. Invece qua, cioè, io ho apprezzato molto anche proprio lo stile, molto letterario, molto anche elegante. Quindi, insomma, ve lo consiglio. Non è così... Sono tornato sul sito di Torchiera perché le foto sono la più bella di Bella. Voglio andare belle. In questo posto, assolutamente. Hai visto come sono belle? Meraviglioso. Invece, andiamo avanti. Sì, andiamo avanti. Andiamo avanti. In qualcosa di più classico anche qui. Sì, andiamo sul classico, nel senso che non possiamo non parlare, cioè siamo a Bologna, siamo negli anni 90, non possiamo non parlarvi di Luther Blissett. Ci stava in qualche maniera. Ma certo. Anche perché Luther Blissett è un personaggio, un'entità, poi lo vedremo, lo possiamo chiamare in vari modi, che echeggia, ormai possiamo dire che in tanti e tante sì. hanno sentito questo nome. Magari non hanno precisamente chiaro che cos'è, da dove arriva, di che cosa stiamo parlando, però esatto. È un nome che comunque... Cioè, la vulgata dice, va bene, Luther Blissett è il nome che prima avevano i Wuming. No, invece, è ben più profonda la questione. Sì. Cioè, certo, anche il Wuming ha mantenuto questa... più o meno questa sorta di collettivo, come si dice, sì. Insomma, ecco, beh, sì, insomma, però Luther Blissett invece spaziava molto di più, era un collettivo molto più ampio che spaziava in anche altre arti, non solo quella letteraria e saggistica, insomma. Sì, esatto, e allora vi leggo velocemente un po' il... come dire, un Wuming 2 per l'appunto, quindi qui proprio citiamo direttamente loro. Wuming 2, che era comunque, si dichiara, ed era un ex membro del Luther Blissett Project, che quando deve raccontare che cos'è Luther Blissett dice questo. Luther Blissett doveva essere una specie di Robin Hood contemporaneo, un eroe popolare del quale si raccontano fatti non verificabili e non ci siamo mai preoccupati di confermarli o smentirli. Era un progetto molto semplice, chiunque volesse poteva utilizzare il nome di Luther Blissett per firmare qualcosa, per rivendicare un'azione, un'opera, un articolo, uno scritto, qualunque cosa. C'era solo una regola, chi firmava un'opera con il nome Luther Blissett non poteva poi rivendicare un copyright esclusivo su quella. proprio perché si avvaleva della reputazione collettiva di Luther Blissett, che ovviamente aiutava a dare visibilità a un'opera, e in cambio di questo si doveva lasciare che essa fosse liberamente riproducibile, poteva essere diffusa, potesse essere diffusa e rimanesse accessibile a chiunque, purché non a scopo di lucro, che è la forma in cui pubblicammo anche noi il romanzo Q. Infatti Q, uno dei romanzi più famosi di Wu Ming, se ce lo ricordiamo, uscì con lo pseudonimo Luther Blissett, ancora non era firmato con... Sì, la prima edizione è Luther Blissett. Bellissimo, tra l'altro Q secondo me è forse... secondo Adoro. Me è quello più riuscito, ma bellissimo. Vabbè, gusti anche Altair è quello dopo. Molto bello, ma Luther Q è... Q era veramente bello. Chi voleva poteva informare che aveva firmato qualcosa Luther Blissett attraverso una mail che arrivava alla newsletter Luther Blissett News, quindi qui siamo già in era internet, in modo tale da poter informare la comunità che ruotava intorno al progetto di che cosa era stato firmato. Era anche possibile firmare in questo modo uno scritto in contraddizione con un altro firmato nello stesso modo. Era molto libero da questo punto di vista. Facevamo una trasmissione radiofonica nella quale, se uno di noi interveniva e diceva qualcosa con la quale si poteva essere in disaccordo, subito dopo interveniva qualcun altro affermando: non sono d'accordo con quello che ho detto prima. Ho detto, perché dentro Luther Blissett ci si dava dell'io, perché eravamo tutti Luther Blissett, quindi non era Luther Blissett, non erano vari, ma era una sola persona. Una volta che firmavi qualcosa con questo nome, eri Luther Blissett, anche se poi potevi fare anche altro con il tuo nome e cognome senza nessun problema. E questo era un po' come descrive Wu Ming 2 la nascita e il concept, vorremmo dire, di Luther Blissett. Questo pseudonimo, chiamiamolo così, sintetizzando, tocca un po' i vertici della celebrità quando, come dicevamo, viene firmato per pubblicare Q, che esce nel 99, quindi siamo abbastanza alla fine di quell'epoca cyberpunk che vi dicevamo, ma insomma ancora ci siamo nel pieno. Al punto che in quell'anno lì il rapporto Italia dell'Istituto Eurispes include nel capitolo 5 dedicato al tema menzogna verità una lunga scheda sulla diffusione di Luther Blissett, proprio come caso esemplare per raccontare appunto come a volte si può giocare con l'illusione di realtà. In realtà da qui vi potremo raccontare tutta una serie di episodi che hanno caratterizzato Luther Blissett, che sono solo un esempio, perché in realtà ce ne sarebbero 20 milioni, che però forse vi possono dare un po' un'idea di che cosa era. Per esempio, il 31 dicembre del 1999 attivisti e attivisti del Luther Bliss Project compiono un suicidio simbolico chiamato il seppuku. Nel comunicato che l'annuncia, il seppuku viene definito l'ultimo estremo radicale darsi alla macchia di un eroe popolare, ed è questo l'estremo gesto con cui il Luther Bliss Project decide di concludersi in qualche maniera. Nel 2000 i quattro autori di Q, che poi si scoprirà appunto erano in quattro, insieme a un quinto formano il collettivo Wu Ming, e da lì c'è un po' tutta la storia dei Wu Ming, che è un po' più nota forse, che però nasce da qua. Come vi dicevamo, ci sono un sacco di... nel mezzo, perché questa era la fine, ma nel mezzo ci sono varie beffe, notizie false e robe, secondo me, molto interessanti, che fanno parte anche quella della cultura cyberpunk dell'epoca, perché si partiva dal voler appunto proprio in qualche modo far emergere l'illusione, quella che anche tu citavi prima quando leggevi la citazione del ritorno di Alice Cibernetica, questo simbolo dello specchio molto caro alla cultura cyberpunk, dove la realtà viene vista attraverso uno specchio, quindi non la vedi più attraverso i tuoi occhi, ma attraverso un mezzo che chiaramente si allude al mezzo tecnologico, ma la realtà che tu vedi attraverso lo specchio è una realtà che ti viene riflessa e restituita in maniera falsata, e quindi non ti puoi in qualche maniera fidare delle realtà che vedi attraverso il mezzo tecnologico. Sì, tra l'altro sto guardando il sito, appunto, lutherblissett.net, e c'è un sacco di roba, ci avrei super voglia di leggere, tipo come fu che Luther Blissett quasi arrivò a chi l'ha visto. Cronaca dei quattro giorni di guerra psichica durante l'inaugurazione della Biennale del 95, la leggenda della... no, della prostituta sieropositiva, il caso Naomi Campbell, beh, la grande truffa alla Mondadori, questo vorrei leggere. Questo ora te lo racconto. Praticamente, detto anche Net Generation, la beffa alla Mondadori. Nel 96 alcuni aderenti al progetto forniscono alla casa editrice Mondadori, che voleva sfruttare commercialmente questo fenomeno mediatico di Luther Blissett. In realtà, se dobbiamo dirla tutta, sì, però voleva sfruttare proprio il nome Luther Blissett. E allora alcuni aderenti a questo, insomma, Luther Blissett, gli forniscono alla Mondadori alcuni testi alla rinfusa tratti da internet, dicendogli che era un grande romanzo pubblicato da Luther Blissett. Mondadori lo pubblica con il titolo Net Generation, con la chiocciola a posto della A. Fantastico. Che nel 96, insomma, era molto futuribile, e presentandolo come il manifesto delle nuove libertà. Era una cazzata, chiaramente, era tutta una roba presa di fatto alla rinfusa da internet. Adesso ci sturba di meno, perché adesso probabilmente la metà dei libri vengono scritti con l'intelligenza artificiale e non ci turba questo. Ora pubblicano libri cuochi, cioè solo chi fa cucina, sportivi, sono questi che pubblicano. Esatto, e probabilmente manco li scrivono loro. No, e stravendono, il problema è quello. Ecco, sì. E un altro episodio buffo erano le beffe sataniche di Viterbo. Brava, te lo volevo chiedere. È lì buffo, ma fino a un certo punto c'è anche delle connotazioni un po' problematiche, perché tra il 95 e il 97 i quotidiani di Viterbo denunciano la pratica di messe nere e violenze a scopo rituale nei boschi intorno alla città. I giornali condiscono di dettaglio le azioni dei satanisti e la notizia finisce anche su Studio Aperto, e ce lo ricordiamo quanto era bello Studio Aperto, dando origine a una psicosi collettiva nella città laziale. La rivendicazione dell'articolata beffa da parte di Luther Blissett avviene in una puntata di TV7, il settimanale di TG1, in cui loro sostanzialmente dicono: ci siamo inventati tutto, era una cazzata. Probabilmente perché, probabilmente dichiaratamente, cosa poi abbastanza nota, era un modo per far esplodere un po' il problema che a tutt'oggi c'è ancora moltissimo dello sciacallaggio che i mezzi di informazione mainstream mettono in atto sulle disgrazie e sulle sulla cronaca nera sicuramente, ma anche su tutto quello che gli sta intorno, perché come ben sappiamo cronaca nera spesso equivale anche a fenomeni, cioè episodi che non sono episodi casuali, ma che hanno tutto un sottobosco culturale e problematico, patriarcale, eccetera eccetera, su cui non si vuole mettere le mani mai, non se ne vuole mai parlare, ma invece ci si affanna a condirli di dettagli morbosi anche per stemperare la loro portata. Un altro: il falso sito del Vaticano. Questo molto bello. Dal 98 ai primi giorni del 2000 viene realizzato da Luther Blissett questo falso sito del Vaticano, che rimane online. Si chiamava vaticano.org, comunque non... certo. E rimane online appunto per 2 anni, con una grafica identica a quella del sito ufficiale, che era invece vatican.va. Con un intento satirico e depistante, oltretutto erano gli anni del giubileo e conteneva un falso programma del giubileo del 2000 e con dei testi manipolati di encicliche papali false. Questo è bello. Questo è molto bello. Sì, questo non me lo ricordavo assolutamente. E questo era Luther Blissett. Ora chiaramente poi nel mezzo ci hanno messo anche tante altre cose, alcune delle quali anche un po' più serie, ecco. Però diciamo che l'intento era destabilizzare in vario modo la cultura mass mediatica, potremmo chiamarla così, dell'epoca, e anche far riflettere per esempio sull'uso della rivendicazione della paternità delle opere, e quindi quanto è insensato il diritto d'autore, il copyright, quanto invece è più stimolante e interessante andare verso un allargamento della produzione collettiva di saperi. E, fratto, siamo arrivati a Luther Blissett passando alle fanzine, perché tra il vario materiale che troviamo su Grafton 9 ci sono diverse cose firmate Luther Blissett, tra cui un libretto che si chiama Cyber Underground, un viaggio nel mondo delle filosofie digitali del 2001, un'enciclopedia a tutti gli effetti sulla cultura, sottocultura cyberpunk e però anche sulle sue radici, quindi dal situazionismo a Marcuse, cioè si arriva veramente a toccare un po' vari temi che però effettivamente erano quelli che hanno composto poi l'immaginario e la cultura cyberpunk, quindi anche quello era un modo, io mi ricordo, ora questo libro non me lo ricordavo, non penso di averlo mai avuto, però mi ricordo quanto erano preziosi questo tipo di libri, di pubblicazioni. Io ne ricordo un altro che sarà stato del 97-98, sui centri sociali, edito dalla Castelvecchi, che non essendoci internet per me da pischella era il modo in cui tu sapevi che cazzo erano i centri sociali, certo. E quanti ce n'erano, dove erano, quanto erano sparsi. Questo tipo di enciclopedie, potremmo chiamarle così, era fatto bene? Era fatto piuttosto bene, sì, era interessante, e c'era chiaramente che ne so, quello sui centri sociali era buffo perché c'erano gli orari, che ne so, oppure puoi andare lì alle ore X, oppure questo non c'è andare perché tanto è sempre chiuso, quell'altro non ti ospitano. Vabbè, la guida alle osterie d'Italia, la guida ai centri sociali d'Italia, esatto. Bello, da un certo punto di vista bello, poi non si può fare, però bello. Molto divertente. E quindi così, su sempre questo Cyber Underground che vi parlava dei mostri sacri e della cultura cyberpunk, si dice, tra l'altro, se vi chiedete perché dovreste leggere mai William Gibson, potrei rispondervi anche solo perché è riuscito a scrivere che il cielo sopra il porto aveva il colore di un televisore sintonizzato su un canale morto. Certo. E quindi qua trovavi un po' tutto quello che era il... effettivamente il panorama a tua disposizione per quanto riguardava il cyberpunk, e questo era firmato a Luther Blissett. Bellissimo. Io tra l'altro stavo leggendo un paio di articoli qua e là, e diverse volte ho trovato citazioni proprio alle fanzine in cui dice: se volete la roba buona è lì, dicono Luther Blissett. Ma sì, ma vedrai, era molto interessante anche per quello, perché poi ti dava delle ricette non convenzionali, eh, che ti diceva vai a leggere il libro della Mondadori. Non devi stare dietro a editor, appunto la casa editrice che ti mette i paletti. Poi dopo uscì per Cusci, per Einaudi, ma che comunque è quel grande cappello lì, sì, quindi esatto. E alla fine siamo lì. Va bene, ci fermiamo un secondo prima di passare a uscire. Usciamo modo. Un po' non dal seminato, ma no. Usciamo sicuramente da Bologna. Oh, usciamo da Basta. Bologna. Rimanete con noi, queste sono le porte di Tannhäuser. Was it with you or were you with me? Yes, my suit is tight and the light shines bright on me. It's Friday night in the club, celebrating that I'm me. I don't know where I ended up last night. I don't know why I can't find her light. I don't know where I left

e che nasce anche questa intorno più o meno all'inizio degli anni 90, il 92 se non sbaglio, ed è una rivista quadrimestrale che 92. Che si definisce di arte dei nuovi media, new media art, musica elettronica e activism. Era una rivista che esplora, ne abbiamo parlato un po' meno in queste due puntate, ma esplora una di quelle correnti molto importanti in realtà all'interno del cyberpunk e del, mi viene da dire, anche dell'activism in generale, che era la corrente artistica, quello che veniva chiamato il tutto il mondo, diciamo, di arte digitale, di insomma artivism, c'aveva vari nomi e pseudonimi, potremmo dire. Questo tipo di arte esplorava in maniera programmatica le possibilità date da delle tecnologie. Quindi abbiamo parlato nella scorsa puntata dell'arte fatta attraverso, per esempio, le fotocopie. Quindi la fotocopia come mezzo per sperimentare, i collage fatti con le fotocopie, mille cose. Si trattava di un'arte piuttosto povera, perché adesso si investe parecchio in realtà sull'arte digitale, su, che ne so, mi viene in mente la grafica 3D, sulle animazioni 3D. Questa roba qua adesso c'ha fiumi di miliardi che ci vengono spesi. Al tempo era una roba effettivamente piuttosto pioneristica, per cui anche un po' underground. Eh sì, cioè si parlava di un tipo di arte davvero sperimentale e che non presupponeva l'utilizzo di grandi soldi, di grandi risorse. Tu potevi fare sperimentazioni di questo tipo con il computer da casa, che però era comunque da poco che esisteva, era una cosa strana che tu ti potevi finalmente permettere, e attraverso quello riuscivi a disegnare con un computer, cosa che finora potevano fare soltanto magari chi ci lavorava, e però tutto ciò non era così dispendioso a livello economico, e quindi fiorisce un po' questa corrente all'interno del cyberpunk, tant'è che tutte le fanzine, i libri, in generale l'editoria cyberpunk, come abbiamo detto più volte, sono anche corredate da immagini molto belle, molto interessanti e mai banali, devo dire. A volte possono piacere di più o di meno, alcune sono quasi, ci suonano quasi ingenue dopo tutto il tempo che scorre, però molto interessanti, perché erano anch'esse parte di quella cultura lì. Ho una riflessione da fare. La riflessione è questa: stiamo parlando di Neural. Sì. Neural, che iniziò proprio parlando di cyberpunk, per questo lo abbiamo inserito all'interno di questa rassegna di fanzine legate al cyberpunk, musica elettronica, realtà virtuale, insomma quell'ambito lì. Poi dopo nel 97 però comincia, attraverso l'internet, perché arriva internet, a diventare qualcosa di realmente virtuale, diventa Neural.it. Allora, l'arrivo di dei siti, l'arrivo dei blog... rispetto alla fanzine, che era magari una cosa autoprodotta ma tendenzialmente collettiva, mentre il blog, tutto sommato, alla fine l'internet, che era qualcosa che doveva condividere, cioè portare la condivisione, però poi forse ha portato all'individualizzazione della produzione. Non so se mi spiego. Sono molto d'accordo, sì. Sì, anche perché presupponeva un utilizzo individuale a casa, perché ora prima abbiamo parlato effettivamente anche nell'ultima puntata del fatto che te magari da pischello andavi a cercarti la fanzine nel centro sociale, ma lì c'era un momento di condivisione sia nel momento in cui tu l'andavi a trovare, perché comunque andavi a un banchino dove un altro chiacchieravi, magari gli chiedevi consiglio, ma questa è bella, no aspetta ma leggi anche quest'altra, quindi c'era in qualche maniera uno scambio anche solo nel momento in cui tu la andavi a comprare. Poi c'era spesso una lettura collettiva, perché magari quella lettura poi la facevi insieme ai tuoi amici, perché magari tu ce l'avevi ma i tuoi amici no, quindi magari la porti a scuola. Giusto. O la leggi o poi te la passi, quindi una roba che sì, già attraverso lo strumento in sé è collettiva effettivamente. Dal momento in cui questa roba diventa fruibile in maniera facile da casa tua, sia chi scrive sia chi legge sta isolato in qualche maniera. Quindi sono molto d'accordo. Manca questa parte effettivamente poi di incontro anche. Non in solo incontro spirituale attraverso la lettura, ma un incontro anche fisico, poi alla fine, anche fisico con l'opera stessa, eh? Cioè il toccare rispetto al guardare c'è differenza. Questo non per demonizzare assolutamente, no, però l'internet, però. Ma guarda, non era un caso che almeno in Italia il cyberpunk ha avuto un momento di splendore con il primo hack meeting, mi viene da pensare, che era del 98, e io ero piccola, me lo ricordo a tinte vaghe. Però sei stata? Cioè, sì. Ah, fantastico. Sono andata, me lo ricordo come un qualcosa di mitologico. E certo, appunto, dei ricordi tipo veramente leggendari. E però era proprio bello, e poi questo si è conservato, peraltro, per fortuna, nello spirito di hack meeting, almeno in Italia, del fatto che però ti devi conoscere, cioè è un momento completamente fisico in cui sì, magari c'è, giusto, della tecnologia, perché c'era un botto, anche più di ora in realtà al tempo, perché al tempo era il momento in cui tu in potevi... proporzione, certo. E sì, cioè arrivava la gente con le furgonate di computer, perché pesavano tantissimo, e arrivavano, c'era, mi ricordo, la banca degli organi, chiamata così perché tu scambiavi certo, le RAM, gli hard disk, perché era una roba che sennò non era così semplice fare, e quindi c'era tanto hardware, tanta tecnologia fisica che però certo, tu potevi toccare, scambiavi con gli altri, ed era un momento, e quello era vissuto come il cyberpunk che si materializza in qualche maniera, sì, senza dubbio. Sì, e l'immaginario era quello, cioè l'estetica era quello, era quella lì, e tutte queste questo immaginario estetico, per esempio, di fiumi di cavi aggrovigliati che poi, certo, troviamo in Akira, troviamo ovunque, ma lo vedevi pure lì, certo, cioè, sporchi e tutto, quello era. E sì, effettivamente, quando poi tutto si è rinchiuso un po' più nell'internet, è persa un po' questa storia. Questa parte qui, sì, poi è chiaro, hai accesso a una quantità di informazioni che prima, appunto, come dicevamo, ti erano precluse, te le dovevi andare a cercare, ma probabilmente non le trovavi. Cioè, no. E ora invece puoi avere magari un libro stampato di là dal mondo, lo puoi avere sotto mano attraverso l'internet, perché poi è grazie all'internet, cioè grazie a un'interfaccia che puoi vedere da qualsiasi parte del mondo. Però ci sono i suoi lati negativi, però, come dire, non è lo strumento, no? Il problema è la società che ti ha fatto porta quello strumento ad usare quello, sì, tra l'altro, ma è la società che ti porta a usare quello strumento nel modo sbagliato, casomai. Sì, esatto. E detto ciò, diciamo che c'è stato anche un momento, come lo vedremo ora a breve, in cui l'internet, cioè certi contenuti li trovavi solo su internet o quasi, e ancora quello poteva essere ancora un po', era una fase forse di transizione in cui ancora però era un internet che serviva a, come dire, a condividere, e aveva ancora una fruizione più collettiva. Parlo per esempio dei bollettini di ECN, di Isola nella rete. Si sta parlando di un progetto che nasce anche lì alla fine degli anni 90. Abbiamo già detto nella scorsa puntata che prima dell'avvento di internet, insomma, quando si iniziava ancora a ragionare, cioè erano ancora, l'internet era ancora una roba all'orizzonte. Però di pari passo i giri di movimento, chiamiamoli così, ragionavano di farsi le proprie reti, di farsi, certo, la propria isola nella rete. E nasce Isole nella rete, che non a caso è anche il titolo di un libro di Sterling, uno dei capisaldi della letteratura cyberpunk, che proprio vedeva in questo mondo capitalista di fatto, che sfruttava la tecnologia a proprio vantaggio, vedeva un mondo dove c'erano anche però delle piccole isole di resistenza che provavano ad andare avanti con delle regole diverse, con delle dinamiche diverse. Chiaramente tutto ciò aveva il suo specchio nel mondo dei centri sociali che nascevano in quel momento, quindi era il momento storico della nascita dei centri sociali in cui si diffondono di più, fico, in Italia. Italia, e quindi la dinamica è esattamente la stessa, così come ci servono delle isole nel mondo reale che siano le nostre tane, i nostri nidi, dove possiamo stare bene, sperimentare forme di socialità diversa, stessa cosa proviamo a farlo dentro internet. Così nasce Isola nella Rete. Tra l'altro, puntata dedicata a questo argomento la troverete su Radio Wombat nei prossimi mesi, sulla trasmissione nostra dedicata alle varie lotte del passato, e che niente, ha parlato prima di Strano Network e adesso a breve parlerà anche di Isola nella Rete. Comunque, tutto ciò, senza entrare troppo nei dettagli perché sarebbe lunga, comunque tra il 91 e il 92 questo mondo e questo progetto Isola nella Rete e CN iniziano a realizzare dei bollettini, delle sorte di bollettini, delle fanzine, dei giornali che riportavano sul mezzo cartaceo, quindi di fatto impaginavano e poi stampavano quelle notizie che circolavano esclusivamente nel mezzo telematico, al tempo si chiamava, quindi non propriamente internet, ma attraverso le BBS di cui abbiamo già parlato. Quindi loro dicevano: ok, noi sappiamo che nelle BBS non ci sono tutte le persone, sappiamo che non hanno ancora un accesso così universale, peraltro neanche adesso, cioè non ce lo raccontiamo, stampiamole e cerchiamo di riportare nel reale anche quello che avviene nel mondo telematico. L'intento probabilmente era doppio, sia fare in modo che le persone scoprissero il mondo digitale, perché al tempo non era così ovvio e c'era abbastanza diffidenza verso questo strumento, ma anche il contrario, cioè come fare in modo che il mondo digitale comunque tenga delle radici ancorate nel mondo fisico. E quindi vengono buttati fuori questi bollettini, e che sono bollettini che principalmente trattano di discussioni all'interno del mondo dei centri sociali e delle aree di movimento italiane di quel momento. Quindi sono bollettini che raccontano cosa sta succedendo, delle discussioni, delle varie assemblee e tra l'altro, come dire, tracciano un dibattito molto vivo, con delle tinte molto, molto vivaci. È un quadro, quello che si legge dai bollettini di ECN, molto vivo, appunto. E questo è più o meno, e questo era secondo me un po' la via di mezzo, cioè nel senso il momento in cui si prova ancora a non rinchiudersi soltanto nella rete, ma a tenere un po' i piedi in due staffe, come dire. Esatto, parliamo al passato, ma in realtà è qualcosa che esiste ancora. Non è una roba totalmente morta. Eh beh, no. Ora, ECN è un progetto che esiste, nel senso che poi negli anni si è trasformato fondamentalmente in un server autogestito. Esatto. Che era un po' il padre o il nonno di Autistici Inventati, anch'esso progetto di server autogestiti che invece esiste da più di 20 anni e che esiste a tutt'oggi. Ecco, ECN era un po' chi aveva iniziato tutto ciò, e prima era anche un po' altre cose, era un progetto più di rete. Certo. Poi di fatto negli anni è diventato militante. Quello ha continuato anche ad esserlo, a un certo punto è comunque militante, ragione. Sì, però a un certo punto è diventato più soltanto un server dove appoggiare alcuni siti, però esiste ancora, è meno vivo di prima sicuramente, ci sono però ancora alcuni spazi italiani che hanno il proprio sito su ECN, quindi insomma. Ecco, per esempio, comunque se volete andare a vedere www.ecn.org, dove c'è la famosa, io lo conoscevo principalmente per quello, la famosa mappa delle aggressioni fasciste. Ah sì, è vero, Antifa. Per la prima volta ci sono raggiunto proprio per questa mappa qua, attraverso questa mappa qua, dove se voi cliccate, interattiva, vi fa vedere dove cose, è un racconto di cosa è successo in tutta Italia. Stavo notando, sono andato a guardarmi un po' la Toscana, non ci sono quelle grosse. Cioè Piazza Dalmazia, No, anche perché quella roba lì non c'è. Temo che sia finito prima il progetto. Forse non l'aggiornano più, dici? Temo di sì. Può darsi, però comunque è una roba secondo me interessante farci un salto per capire di cosa vi stiamo raccontando. Ma anche perché è difficile parlare effettivamente del cyberpunk letterario, culturale, artistico in Italia se non lo si lega a questo tipo di cose, perché in Italia il cyberpunk è stato molto, sempre molto politico, non solo, in buona parte sì. È vero. E anche nel resto del mondo, devo dire, però in Italia effettivamente era molto legato a tutta questa parte che vi diciamo qua, quindi fa parte anche questa della medaglia, ecco, è una delle facce della medaglia. Sto guardando, che cos'è Crypto? Crypto era un altro progetto, so, ci sono moltissime cose, perché al tempo, fra l'altro, poi si amplierebbe all'infinito, un'altra delle correnti storiche del cyberpunk è molto legata all'hacking, all'activism, era il movimento cypherpunk. Quindi il movimento si in qualche modo preoccupava di diffondere l'uso, l'utilizzo della crittografia e che rivendicava anche il diritto all'anonimato e a non essere censurate, insomma c'era tutta una serie di cose, e mettevano in atto anche varie azioni, insomma c'avevano un movimento piuttosto interessante, e fa parte di quel tipo di scena lì, che è una scena di base molto tecnica, alcuni di questi progetti, tra cui Crypto o altri che potete trovare. C'era, tra l'altro, ma anche lì entreremmo in un altro mondo ancora, in un altro universo parallelo, proprio di quegli anni esce Kryptonite, che è un libro autoprodotto fatto dai primi giri. Alcuni autori li abbiamo trovati anche su Decoder, quando abbiamo parlato di Decoder nella scorsa puntata, Luke Pack, Martha McKenzie e vari erano gli autori di questo Kryptonite, che era di fondo un libro molto strano, molto bello, pieno anche di illustrazioni, che fondeva racconti cyberpunk, noir, eccetera, con il primo hacking, e quindi con ricette pratiche di freaking, di certo, cyberpunk, e le mischiava, parlava della prima crittografia, del PGP, di varie cose, le mischiava però anche con la narrativa cyberpunk. Sto vedendo che se vai praticamente su archive.autistici.org e ti riconnetti, insomma, a questo circuito qua, c'è Crypto Ribelli Autodifesa Digitale, e se clicchi c'è il vecchio sito che ancora esiste ma che non funziona più, che era incredibile, sfondo verde con queste due praticamente frecce, una va verso Watching Us e da Watching Us va verso Watching Them, e sono, come si dice, a intermittenza. Bellissimo. E mi ricordo, questo proprio si va sulla vecchiaia, che mi ricordo questa roba si stampava per tornare, no? Certo. Questa roba qui non la trovavi solo online, anzi, online chi la vedeva erano poche le persone che ci andavano. Tu la stampavi, la stampavi, la portavi alle distribuzioni, le mettevi nei banchini, la davi via il più possibile, le persone se la condividevano in quella maniera. Anche le ricette pratiche, tecniche. PGP, Private Idaho, Client Mix Master. Esatto. Sto vedendo un po' tutte. Sì, ed era tutta figa, roba che tu imparavi così. Io anche in inglese, cioè, sì. Dopo. Fantastico. Quella roba io, tra l'altro, ce l'ho, ed è le cose che io usavo per studiare, però comunque non è che c'era. Ma la guida di autodifesa digitale un po' viene da qua. La guida d'autodifesa digitale arriva parecchi anni dopo, no, in certo, realtà, chiaro, ovviamente, chiaro, no, che è un, per chi non lo sa, è un libro che è stato tradotto dal francese, ed è in realtà un progetto, no, che arriva molto dopo, non arriva direttamente da qua, però diciamo che sicuramente ha attinto a quel mondo là, e le sue radici, sì, arrivano anche dal cyberpunk e da tutta quella cultura di rivendicazione del diritto all'anonimato, che comunque era parte integrante del cyberpunk. Certo, era molto più semplice forse l'anonimato prima. Sì. Oddio, per quanto ricordiamoci che il creatore del PGP, che ha inventato il software del PGP, che era un software per cifrare le mail di base, che viene ancora oggi usato, è molto usato, ma per farlo uscire dagli Stati Uniti, siccome era considerato un'arma perché la cifratura, certo, era considerata, certo, arma dal governo, chiaro, degli Stati Uniti, e quindi far uscire il codice era considerato esportazione di armi. Quindi il noto e famosissimo l'episodio in cui lui si tatua sulle braccia il codice del PGP per farlo uscire alla frontiera, per bellissimo. Sì. Un libro, perché non hanno scritto il libro? Ma mi sa che l'hanno scritto. Mi si è spento il computer. Oh no, vabbè, non importa, lo riavvio. Mi sa che l'hanno scritto, Prison Break parla esattamente di questa cosa qua, tatuarsi cose importanti, esatto. Anche Memento, come si chiamava quello che si dimenticava le cose? Memento, che se le bellissimo scrive. Memento, mamma mia. Molto bello. Quindi, mentre tu riavvi il computer, se vuoi potremmo mandare, però forse non... Sono pronto, quando vuoi. C'hai un altro sempre computer, però quanti computer hai? Potremmo mettere un altro brano musicale. La musica deve essere sempre autonoma e funzionante. Bravo, sempre. Bravo. Poi... Mi piace, questo lo potremmo scrivere da qualche, esatto, parte. Indipendente e autonoma la musica. Va bene, quindi mandiamo un altro brano e poi ci prepariamo per l'ultima parte in cui finiamo di tediarvi con le fanzine cyberpunk. A fra poco! the machine rages on, or rage against the machine. That band is anti-family, and it's pro-terrorist. Questi erano i Rage Against the Machine. Li ho scelti un po'. Vabbè, questo è un pezzo iconico, l'abbiamo sentito 100 milioni di volte. A me non stanca mai, però capisco che possa stancare. Beh, però era perfetto, direi. Per sì, cioè, esatto. Cioè, loro è appunto la rabbia contro le macchine. E poi anche questo pezzo qua, insomma, parla molto di... Loro io non ho mai... Cioè, sono americani, no? I compagni americani sono difficili da definire compagni fino in fondo. Però oggettivamente... No, ce n'è, ce n'è. Non li puoi tagliare fuori. No, quelli veri... sì, diciamo, però... Beh, loro secondo me sono stati molto importanti. Dai, sì, secondo me sì, tutto sommato. Sì, sì, sì. E d'altra parte erano anche la colonna sonora di quegli anni, cioè, sì, sì, sì, è vero. Cioè, quelli ascoltavi a un certo punto. È non vero. Solo, però insomma... Parlavamo invece di un'altra cosa mentre ascoltavamo i Rage Against the Machine, cioè della questione della dell'essere un... dell'aspetto di artigianato che c'era nell'inizio, nella scoperta di internet e anche nelle fanzine, chiaramente sono totalmente artigianali, quindi si collega bene al tutto. Diavolo, mi era venuta in mente un'altra cosa legata all'artigianato, ecco, e ce l'ho, che ora invece si è persa un po' questa parte di artigianato, nel senso non è che non c'è, però abbiamo già tanta... Il secondo piano. Sì, abbiamo già tanta roba pronta, cioè te ti puoi comprare 2 o 3 pezzi, sono più o meno, ora meno facili da trovare perché non ci sono le risorse per produrli, perché si è prodotto troppo e perché ci sono interessi geopolitici, però... prima invece era, come dicevi, no? Lo scambio di pezzi per pezzi anche magari sconosciuti o diversi, o invertarsi, che ne so, nuovi mezzi di raffreddamento, nuovi quindi c'era una parte di artigianato. Questa cosa non c'è più, o si è persa in parte, o è più labile. Cioè, però la radio secondo me ha mantenuto, però in parte, uscendo da quella commerciale chiaramente, la parte di artigianato rispetto invece all'internet. Sì, anche perché la radio è, secondo me, per sua natura, un qualcosa che è uno strumento che per farla, per ascoltarla è un altro discorso, certo. Ma per farla hai bisogno di essere tutti insieme. Cioè, nel senso, è un progetto collettivo per sua natura. Per fare una radio, per fare i podcast è un'altra cosa, però quello è un altro strumento ancora. Esatto, esatto. Mentre invece lo strumento radio è effettivamente qualcosa di collettivo per forza, e anche ha una componente tecnica. Che poi quello dipende da radio a radio, quanto decidono di farlo insieme, per esempio, quanto decidono di delegare, certo, a degli specialisti, ma di base anche quella è sicuramente un aspetto che chi fa radio, anche se fa semplicemente arriva e fa la conduzione e basta, però non può del tutto ignorare. No. Quindi sì, certo, c'è un aspetto che mantiene... Sì, anche perché probabilmente la radio, al di là di... Cioè, nel suo essere rimane un qualcosa di non domabile fino in fondo. No? Cioè, a un certo punto le onde vanno, non le puoi fermare, puoi inventare tutti i jammer, tutto quello che vuoi. Però non puoi bloccare il passaggio delle onde in tutto il mondo. Mentre l'internet... anche quello non lo puoi bloccare totalmente, però insomma è ci più riesci facile, molto bene, sì, sì. Esatto. Lo puoi anche addomesticare molto meglio. Ora la radio si è visto che magari, cioè, ecco, anche lì la radio effettivamente è uno di... poi anche qui potremmo spaziare moltissimo, sì, perché sì, è un, certo, argomento complessissimo, ma effettivamente la radio è forse un po' per certi versi inspiegabile, o perlomeno inspiegato, il come mai continui da 100 anni e passa a essere veramente intramontabile in qualsiasi contesto geografico, politico, sociale. Evidentemente è un qualcosa che hanno provato anche molto anche lì a metterci le mani sopra, a renderlo, però non viene così bene come altri strumenti, evidentemente. Poi, per carità, cioè, insomma, se guardiamo la maggior parte delle persone che ascoltano radio in Italia, per esempio, immagino che l'ascoltino attraverso radio circuiti commerciali, certo, che, certo, quindi sono più che addomesticati, certo. Però del tutto non ti riesce questa cosa. Va bene, niente, era un aspetto interessante. Comunque gli anni delle fanzine dedicate al cyberpunk erano dedicate al cyberpunk proprio perché c'era l'arrivo, la nascita di questa novità che era internet e che dava degli strumenti innovativi, diversi, nuovi, anche per il dissenso. Ma sì, ma guarda, veramente la cosa interessante che è difficile rendere, forse, non so se siamo riusciti in questo poco spazio a renderlo, certo, è che il cyberpunk andava davvero di pari passo con un sapere tecnico, cioè con una voglia di conoscere gli strumenti. Quindi da un lato c'erano tutte le fascinazioni letterarie, la curiosità anche solo estetica della macchina, tutte le questioni filosofiche che abbiamo detto anche precedentemente. Dall'altro lato c'era la curiosità proprio hacker del aprire la macchina, vedere cosa c'è, come funziona e come posso farla funzionare meglio, come posso ripararla. Ecco, bravo, esatto, anche e soprattutto quello, cioè essere autonomo e poi magari insegnare anche a qualcun altro ad esserlo. Perché comunque non è che c'avevi grandi alternative, no, soprattutto all'inizio. No, infatti. Sì, ma poi davvero era una cosa, non per niente, erano gli anni in cui sono nati i primi e-club, quindi anche lì era un modo in cui tu parlavi di cyberpunk, leggevi il cyberpunk, ma facevi le cose, facevi l'hacking, leggevi, che ne so, le BBS. Io mica ce l'avevo a casa il computer con la BBS. Io la prima volta che ho avuto accesso alla BBS ero con altre 5-6 persone intorno a me, perché fantastico, se no non c'avevo accesso a quella roba là. Tante altre persone hanno avuto un accesso più individuale, a dirla tutta. Però certo, non era così scontato. E in realtà sì, era un modo molto, molto interessante. Poi ci sarebbe da dire che c'erano anche lati negativi o più oscuri. Per esempio era un mondo di base molto maschile, ci sarebbe, insomma, erano elite un po' private, un po' anche che generalmente tendevano a sbatterti fuori. Ma è un mondo che ancora, quell'underground, no, è un pochino più vaccinato da un certo punto di vista, ma è un mondo ancora molto maschile. Sì, il che è strano, va quasi in contraddizione con quello che finora dicevamo e raccontavamo, sì, del cyberpunk, sì, che invece di per sé avrebbe liberato le persone, sì, avrebbe, sì, potuto dare anche una possibilità di esplorare le proprie identità, proprie. E in realtà poi molto spesso alla prova del 9 le comunità o comunque i giri cyberpunk non hanno saputo davvero sfruttare tutta quella libertà che avrebbero avuto in mano. Poi sai, fare col senno di poi è chiaro, è facile, esatto, sì. Quindi non è una critica, è un'analisi, chiaramente. Sì, anche perché poi nel frattempo non è che il mondo intorno era neutro, cioè chiaramente certo, che facevi quello che potevi in un mondo che ti diceva di fare il contrario continuamente. Quindi insomma, ora poracci, non è che gli si può manco dire che dovevano fare tutto loro. Però sì, detto ciò, abbiamo detto che ci manca l'ultima chic. Sì, vi abbiamo promesso che saremmo un po' espatriati, saremmo andate un po' oltre i confini nazionali. E quindi vi prendiamo, come vi dicevamo, ci sarebbe veramente troppa roba di cui parlare. Quindi ci concentriamo su due esempi, che sono per l'appunto esempi, che però ci sembravano carini già citare. Uno è il cyberpunk, antologia di testi politici a cura di Raff Valvola Scelsi, edito per la Shake. Anche qui lo potete trovare su Archive, anche linkato tramite il sito grafton9.net, di cui vi abbiamo lungamente parlato. Questa è una rivista che ha la forma di un libro a tutti gli effetti, perché è molto corposa, sono più di quasi 200 pagine, tra l'altro anche qui con le tipiche illustrazioni estetica delle grafiche della Shake, che erano veramente bellissime. Ed è un'antologia di testi scelti all'interno del mondo cyberpunk, prevalentemente statunitense, ma non solo, perché c'è anche cose che arrivano dalla Germania e da altre parti d'Europa. Però c'è una forte componente statunitense a dirla tutta, anche perché effettivamente quel mondo lì negli Stati Uniti in quegli anni era vivissimo e molto interessante. E in questa antologia, che di fatto è come se fosse un'antologia delle fanzine, perché di base prendeva articoli che non tutti, ma la maggior parte erano usciti su fanzine o riviste, vi dà veramente una bella infarinata di quello che era lo spirito di quel momento. Vi faccio una carrellata dell'indice solo per darvi un'idea. È diviso in sostanzialmente in macro argomenti. Si parte dalla letteratura cyberpunk, dove c'è per esempio la prefazione di Mirror Shades di Bruce Sterling, di cui parlavamo nella puntata scorsa, che è un po' stato il manifesto del cyberpunk, una prima antologia di racconti cyberpunk, quando ancora il cyberpunk era praticamente agli albori e non si sapeva bene che cos'era. E c'è questa prefazione, Mirror Shades, scritta da Bruce Sterling, che vi invito a leggere se non l'avete mai fatto, perché è molto interessante ed è estremamente politica, ed è di fatto un manifesto politico del cyberpunk. Poi c'è Sandrone, che citavamo, Sandrone Dazieri, un'altra componente italiana questa volta della sottocultura cyberpunk, che anche lui racconta della letteratura cyberpunk e anche lì spiega un po' le ragioni, il perché, il per come, i modi. E poi si parla di Gibson, William Gibson, l'avvenire reinventato. E poi c'è invece tutta un'altra ala che parla del cyberpunk visto come fenomeno politico controculturale e il cyber antagonista, e ci sono insomma veramente dei nomoni, c'è lì Felsenstein, Sparfel, moltissime persone che insomma che poi sono state anche notissime sia nella scena cyberpunk, ma anche a ma mi viene da dire più che hacker è proprio del mondo tecnologico, certo. In generale. I tecnoanarchici è un'altra parte, e qui c'è una lunga intervista interessante alla scena hacker tedesca, il Chaos Computer Club, che al tempo era qualcosa, e anche adesso effettivamente di molto centrale in questo mondo. Poi c'era il cyber psichedelico, che invece raccoglie ad esempio un articolo di Timothy Leary sulle realtà virtuali, insomma, quindi si parla che figata, di nomoni. Sì, ed era un po' tutta la raggiera, ecco, c'erano un po' tutti e si cercava di esplorare un po' tutti gli aspetti del cyberpunk. Bello, bello, sto leggendo anche altro, ma fico. Mm-mm. Applicazioni cyber, sì, appunto. Eh sì, anche lì robe, sperimentazioni sulla televisione. Poi c'è un articolo sui Mutoid di cui parlavamo anche l'altra volta, o un articolo sulla furia del Baus, anche questi citati nell'ultima puntata. Insomma, c'è veramente di tutto. È un libro molto godibile. Chiaramente alcune robe è molto interessante leggerle perché sono datate. Proprio perché sono datate è interessante. Certo, certo. Perché si parla di che cosa potrebbe diventare il cyberpunk, e adesso sappiamo che non lo è diventato. Esatto, però. Cioè sempre leggere tutto, fighissimo. Bisogna sapere cosa si sta leggendo, appunto. Eh certo. Ganzo, tra l'altro sto vedendo lo scan su Archive, c'è le sottolineature del proprietario o della proprietaria sì, precedente. Bellissimo. È vero. Che l'ha scannerizzata, bellissimo, bellissimo. Sì, tra l'altro su Radio Wombat trovate anche delle letture fatte con Slick Chick, che riconoscerete la voce perché ho fatto io, un'estate che abbiamo letto, ho letto noi, vostra maestà, abbiamo letto alcuni racconti, alcuni testi tratti proprio da questa antologia. E tra l'altro anch'io uguale, mentre le leggevo scoprivo le mie vecchie sottolineature. Facciamo, guarda, questo l'ho fatto io. Sì, io per poco, non sono mai stato un grande sottolineatore, però per un pochino sì, ogni tanto se rincappo in quei libri faccio, pensa a te. Sì, che cosa mi aveva colpito al tempo. Ebbene sì, e quindi siamo alla fine quasi della puntata, vi salutiamo con un'altra suggestione, un altro raccontino. Questa volta usciamo un attimo dal seminato del cyberpunk, perché andiamo a parlare di fanzine, riviste, di quello che viene dopo il cyberpunk, che in qualche modo è stato considerato un po' il suo successore, che è lo steampunk. Fico. Ve lo citavamo l'altra volta, e una delle fanzine, una in particolare, sempre rimanendo oltreoceano, che vi vogliamo raccontare è lo Steampunk Magazine. Steampunk Magazine, decisamente di diversi anni dopo, degli anni 2010, più o meno affini. Infatti era sostanzialmente il giro di Occupy Wall Street 2007-2016. Sì, penso che poi il 2016 era veramente un po' il canto del cigno. Però diciamo che gli anni d'oro sono stati sì, intorno a quegli anni là. E era nato dal movimento steampunk statunitense, che all'epoca era piuttosto forte e piuttosto interessante, tra l'altro. Nato intorno appunto a post Seattle e post Seattle, direi, e più che altro all'interno del giro di Occupy Wall Street, appunto. Se vi andate a rivedere i video anche dell'epoca di Occupy Wall Street, troverete, scoverete diversa gente vestita vittoriana. Fateci caso. Tra cui, certo, per esempio, una donna che si faceva chiamare Emma Goldman. Bellissimo. Che firmava diversi articoli, diversi volantini, diverse cose con lo pseudonimo di Emma Goldman, vestita vittoriana, generalmente di bianco, con i pizzi e l'ombrellino. E lei era una delle animatrici, delle scrittrici dello Steampunk Magazine. Insieme a lei c'era Margaret Kiljoy, professor Calamity. C'erano tantissimi scrittori e scrittrici che si firmavano con questi nomi molto anche, come dire, che colpivano l'immaginario. E a tutti gli effetti era uno steampunk che intanto era l'inizio dello steampunk, quindi quando ancora non si era in qualche modo un po' trasformato in un raduno di cosplayer, possiamo dire. È vero, oggettivamente. Era ancora un movimento abbastanza, che davvero prendeva lo spunto dal cyberpunk e ne era davvero il fratellino minore. Certo, cioè, senza nulla togliere ai cosplayer. No, perché? Però era un'altra cosa. Cioè, c'è qualcosa all'inizio di un po' più corposo. Ecco. Sì, era anche molto arrabbiato all'inizio, in qualche sì, maniera. Non a caso nasce Occupy Wall Street. E tutte queste persone, a un certo punto un collettivo in particolare, dà vita a questo Steampunk Magazine, che è questa rivista che esce per diversi numeri, che è sostanzialmente una rivista che raccoglie sia racconti steampunk fatti dal giro però della comunità, veramente della sottocultura steampunk di quel periodo, di quel mondo lì, e tra l'altro con ramificazioni e contatti anche nel resto del mondo, perché in realtà raccoglievano anche articoli da non solo dagli Stati Uniti, ma anche dall'Europa, anche fuori Europa, in Sud America, insomma c'erano diversi altri contributi. E oltre a racconti di narrativa molto interessanti e molto carini, che di fatto hanno nutrito la letteratura steampunk del momento, c'erano anche, per questo ve li cito perché mi ricordano molto le fanzine cyberpunk di cui vi abbiamo parlato finora, c'erano degli articoli che invece davano conto del dibattito dell'epoca. Quindi per esempio c'era, mi ricordo, un lungo dibattito diviso in due numeri, cioè in un numero c'è un lungo articolo che parla dello stato della comunità steampunk, della sottocultura, e parla di tutta una serie di critiche anche, perché già si intravedeva la commercializzazione in qualche maniera dello steampunk, certo. E quindi si vede proprio interno come le persone all'interno di quella sottocultura ragionano dei rischi della deriva che sta prendendo. E quindi c'è un primo articolo molto Nel primo fervorato. Numero c'è Putting the Punk Back into Steampunk. Esatto, esatto, per dire come la intendevano. E c'è un primo articolo molto infuocato dove dice sostanzialmente niente, lo steampunk ormai è già morto, è come il punk che è morto, ecco, lo steampunk è morto ancora prima. E nel numero successivo c'è un altro articolo che invece gli risponde: no, aspetta, aspetta, no, non è non vero, sono d'accordo. Non sono d'accordo. E c'è questo bot in risposta molto interessante, molto corposo. Fio. Che vi dà l'idea, insomma, anche della vivacità di quella sottocultura. E direi che per questo, cioè, potremmo stare qui tutta la notte insieme a voi, ma non lo faremo perché abbiamo anche un'altra vita. Ma per dire. E, quindi abbiamo un po' esaurito questo filone delle fanzine legate al cyberpunk, ma chiaramente il filone della fantascienza in tutte le sue sfaccettature non finisce qua. Ci sentiamo non il prossimo lunedì, ma quello dopo, che come sempre dobbiamo dirvi qual è, perché è sempre difficile, soprattutto se uno lo sente in differita. Siamo già a dicembre. Il 9. Tra l'altro, a un certo punto, probabilmente il 9 ci sarà il Natale. Poi c'è il 23, quindi ci si vedrà di nuovo. Mi sa sì, che forse il 23 lo saltiamo. Esatto. Quindi la puntata prossima sarà l'ultima del 2024. Possiamo già dire, visto che abbiamo scelto? Diciamolo. Allora, parleremo di fantascienza e grandi viaggi. Che cosa vuol dire? Lo scoprirete solo ascoltando qui su Radio Wombat. Non grandi crociere. Quella no. Non grandi crociere, assolutamente. Quindi queste sono le porte di Tannhäuser. Per oggi si chiudono, ma si riapriranno appunto il 9 per l'ultima puntata 2024. O nulla, un saluto a tutte e a tutti. Ciao ciao. Wombat. Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. No, io sono tuo padre. È sempre efficiente lanciafiamme. Il mio preferito. Benvenuto sulla Terra. Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà.